Voci dal giro. Siamo arrivati all'appuntamento con le grandi montagne che cominceranno domani. Ivan Basso, buonasera. Buonasera a voi. Come è andata innanzitutto la tappa di oggi, che aveva un finale insidioso? Ma è una tappa abbastanza facile dal punto di vista altimetrico, però al Giro d'Italia non esistono tappe facili, tant'è vero che nel finale comunque abbiamo dovuto comunque lavorare come tutti i giorni con la squadra per evitare cadute e comunque cercare di restare sempre nel vivo della corsa. Senti Ivan, la tappa di domani dirà chi non può vincere il Giro o ci darà già qualche indizio sul vincitore? Ma io non lo so cosa dirà la tappa di domani, sicuramente è una delle tre tappe di alta montagna che affronteremo in questo Giro, è la prima, è dura quanto le altre due, è difficile così interpretare col pensiero come quello che potrà succedere domani, però sicuramente ci sarà qualcosa di importante, su questo non c'è dubbio. Qual è il tratto, il momento che può fare la differenza secondo te domani? Io credo che domani è una tappa dove, dopo una prima parte dove la corsa prenderà una sua fisionomia, quindi la fuga che andrà via nella prima parte, ma la vera corsa entrerà nel vivo dal passo Duran in poi, quindi negli ultimi 65-70 km di corsa, lì le strategie delle squadre inizieranno a muoversi i corridori e da quel punto non c'è più respiro fino all'arrivo. Ti chiedo un'ultima cosa, l'avversario che maggiormente terrai d'occhio, quello vestito di rosa o c'è qualcun altro? Domani è una tappa dove devi fare pochi calcoli e bisogna cercare di fare al meglio il finale di corsa, quindi senza troppi calcoli. Beh Ivan, dunque in bocca al lupo, grazie. Grazie. E ringraziamo dunque Ivan Basso, che ritroveremo domani sera a quest'ora dopo questa tremenda tappa di montagna. Buona serata a tutti.